Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Questa prima domenica un po' di caldo che nessuno si aspettava, e non mi aspettavo anche che in questi giorni ci fossero già problemi di siccità, però purtroppo il tempo è quello che è, quindi speriamo. Purtroppo, detto da me, che è stranissimo, che io odio il freddo, speriamo che venga a piovere. Ma bando un attimo alle ciance, perché devo un attimo andare a spiegare nello specifico la puntata di oggi, l'intervista di oggi, che dove avevo già anticipato domenica scorsa. Sono in collegamento con i Punkers, che adesso vi introduco un attimo, che dopo vi farò salutare anche da loro. E per chi ci sta seguendo sulla radio non cambia nulla, perché tanto sentirete solo le nostre voci, quindi è la solita puntata. Per chi ci sta seguendo su Instagram vedrà la mia faccia e dall'altra parte due membri dei Punkers che sono mascherati, semplicemente per quale motivo? Perché tengono a non far vedere i loro volti sui vari social, quindi che possa essere Instagram, Facebook e quant'altro. Quindi dopo, nello specifico, andremo anche a chiarire con loro questo motivo, per quale motivo anche si stanno continuano a mantenersi l'anonimato, perlomeno anche sui social. Prima di introdurli brevemente, erroneamente, come avevo detto domenica scorsa, pensavo fosse un'intervista internazionale, che avessero imparato italiano o che sapessero italiano, ma in realtà sono italianissimi e dicono di venire dalle parti di Washington, e anche qui dopo andremo a spiegare, ci andranno a spiegare nello specifico loro per quale motivo tutto questo movimento particolare. Quindi adesso, come dicevo prima, siamo in collegamento con i Punkers, quindi ciao ragazzi per la terza volta tipo. Ciao. Ciao. Come state? Ma intanto siamo molto bene, ovviamente fa anche da queste parti fa un po' di caldo. Dicevi, scusa che ti ho interrotto, saluti da, perdonami. A James Punkers. Ok, James e Ale. Caleb, ok, perdon, non avevo capito benissimo. Quindi come non avevo detto che anche i nomi sono fittizi, a parte il cognome, che è quello della loro band, quindi anche lì ci sarà un'intervista molto interessante, perché anche da capire tutte le varie motivazioni che ci sono dietro. Ma noi abbiamo una prima di parlare di tutto quello che concerne i Punkers musicalmente, ideologicamente e quant'altro, abbiamo una domanda di rito che bene o male facciamo a chiunque intervistiamo, e si tratta, non so se volete parlare, comunque immagino che li ascoltiate e li ascolterete ancora, e cosa pensate dei NoFX, che il prossimo anno si scioglieranno, che comunque quindi c'è già questo movimento sui NoFX che si scioglieranno, questo annuncio da qualche mese, quindi cosa se volete dirmi qualcosa dei NoFX, cosa ne sono per voi un po' i NoFX? Allora, parlo io come James Punkers, ti posso dire questo, che quando ho letto la notizia ho mandato una richiesta, ovvero Punkers sono in elenco per provare a sostituire i NoFX, ovviamente senza alcun ritegno. Se c'è bisogno di dare una mano per cercare di raccogliere la loro eredità, i Punkers ci sono e sicuramente sono disposti a girare il mondo come Punkers, ma come dire, raccogliendo quell'eredità, che è ovviamente un'eredità molto molto pesante, ma proviamo a farcela. Ok, bel proposito. E invece per... Sì, vai. Allora, cosa ne pensi tu dei NoFX? È una domanda abbastanza tematica. Loro si rappresentano un po' sono tra quelle bande che tra quelle band che sulla costa occidentale degli Stati Uniti hanno contribuito un pochino alla commercializzazione, alla mercificazione dell'hardcore, un po', sebbene conservino i testi, sebbene conservino una certa spinta, comunque il loro domina più che altro un appeal molto fruibile, molto fresco, molto riconoscibile e persino un po' troppo ruffiano, a mio avviso, in determinati momenti, e che diventa più commerciale. Quindi commento questa cosa dicendo tutto per le fasi pubblicitarie, per rinvigorire un po' anche l'affluenza dei propri live. Ma noi facciamo una cover del NFX. Noi certo che facciamo una cover del NFX, tutti quanti siamo su questo palcoscenico che si chiama musica, che si chiama intrattenimento, che si chiama che punk rock, cultura, che si chiama anche però proposta poetica, e che può avere tanti altri nomi che non siano soltanto SIAE o biglietti da vendere o insomma numeri da sovrapporre ad altri numeri. Ok, ok, ottime risposte. Siamo andati bene? Sì, sì, bene. Perché non avevamo preparato per niente questa qui, neanche le altre l'abbiamo preparate, però ci siamo fatto così a gamba tesa con una cosa che... No, no, ma ci sta. Io ho raccolto diverse informazioni su quello che abbiamo intervistato, intervisteremo, pensano su NoFX, quindi questa è una cosa che... È la seconda volta che salta fuori un discorso di rinvigorimento dei NoFX, quindi vedremo poi come andrà a finire. E quindi, dopo aver un po' introdotto anche quello che sarà questa puntata di Le Stormo Rock in intervista, nello specifico con i Pancast che sono con noi, 333 180 94 94, se voleste mandare un messaggio che poi lo riferirò a loro, oppure qualcuno se volete mandare un commento su Instagram, così entrambi lo leggiamo e non dovrebbe essere perso. Quindi domanda un po' d'apertura per quanto riguarda i Pancast, apertissima, perché vorrei sinceramente capire come è scaturito tutto questo, come sono nati un po' i Pancast. Allora, io a un certo punto incontro Caleb e con Caleb pensiamo di mettere su questo progetto, siamo nel 2018, e poi nel 2019 registriamo il primo EP, che si chiama The Vote. Prego, sì, diciamo che il materiale l'ha messo fuori molto James, aveva cantoni, accordi, armonie, sono un po' di materiale che aveva necessità di essere forgiato, di diventare canzone, e per questo ha chiesto il mio supporto. Ci conoscevamo già perché siamo amici per ragioni anche professionali, e alla fine è arrivata questa proposta. Siamo i due membri che dei Pancast stanno insieme dal 2018, poi gli altri membri si sono a volte aggregati, a volte insomma abbiamo lasciato, abbiamo salutato qualcuno, e quindi questo è un po' quello che è successo negli ultimi 5 anni. Sono tanti cinque anni, a settembre, 5 anni a settembre. Ah, già, divertente questa cosa. No, beh, l'importante è almeno che anche gli altri membri sposavano questa idea di non farsi vedere pubblicamente sui social, o c'era qualcuno che diceva non mi interessa. No, è una condizione di ingresso nella band, non puoi dire metto la mia faccia sui social. E ti specifico però un'altra cosa che secondo me va chiarita. Certo. Noi dal vivo non ci presentiamo così. E infatti, quello che ci interessa... Vai. Ecco, no, quello che ci interessa oggi è comparire davanti a voi mascherati, perché noi questa cosa la facciamo con un intento preciso, cioè stiamo comunicando qualcosa di molto puntuale, e per questa ragione è che soffriamo il caldo in questo momento, mentre tu hai la felicità del volto scoperto, noi il volto lo stiamo tenendo coperto. È una sorta di continuità narrativa di ciò che portiamo, dei contenuti che portiamo nei testi e nel genere che facciamo, insomma. Sì, diciamo che una sorta di ascoltate quello che sto dicendo piuttosto che guardate come suono, più o meno, no? Da live intendo, da poi. Da un lato sì, dall'altro è anche perché c'è la faccia coperta, e questa è la domanda che a noi ci piace farci, no? O che le persone si chiedono. Esattamente. Nel momento in cui sono panca, nel momento in cui si raccontano come band all'interno di un contenitore che è il loro progetto, chiamiamolo più che progetto musicale, progetto di protesta, se vogliamo, perché non è sempre riducibile soltanto alla proposta ritmica, melodica, eccetera. C'è qualcosa di più, c'è un contenuto poetico che vuole trascendere, e quindi la ragione per cui ci mostriamo mascherati è anche per creare continuità. Su questo, ecco, insomma. Ok, no, infatti molto molto molto interessante. Volevo anche qua arrivare a capire dalla mia parte, perché sostanzialmente uno mette il proprio volto alle volte che possa essere bello o brutto, diciamo molto terra terra, e poi dopo si va a formare un po' tutto, no? È molto, molto interessante. Infatti mi fa piacere che siamo riusciti a fare questa intervista, che è con il vostro terzo EP, che si intitola Out of the Kingdom, che diciamo ricalca un po' quello che avete proposto fino adesso. Io sinceramente, dal primissimo EP che avete tirato fuori, The Vote, come dicevamo prima, sentivo tante sonorità molto alla Dead Kennedys. In questo disco, in questo EP, in questi 5-6 pezzi che avete tirato fuori con Out of the Kingdom, questa sonorità alla Dead Kennedys le ho sentite molto meno rispetto. Quindi c'è stato un po' di cambiamento in questi tre EP poi. Ma guarda, assolutamente, assolutamente sì. È ovvio che tu hai colto un elemento importante. I Dead Kennedys sono una radice di Punkast. È una radice che però abbiamo cercato in qualche modo non di abbandonare, ma di, come dire, lasciare un po' più sottoterra per fare crescere un altro albero, che tenendo conto di quella radice, evidentemente, perché i Dead Kennedys sono, come dicevo un attimo prima Caleb, una delle band fondamentali del punk mondiale, una band non mercificata e anche una band che di argomenti di protesta ha fatto il proprio culto. Quindi noi arriviamo a Out of the Kingdom con la consapevolezza di tenere ferma quella radice, ma di cercare di sviluppare musicalmente qualcosa di diverso. Tra l'altro credo che nei 5 pezzi di Out of the Kingdom tu possa sentire anche delle interessanti differenze tra una canzone e l'altra, cioè la proposta non è una, come dire, univoca e omogenea, ma tramite quelle differenze c'è anche tutto l'interesse che abbiamo noi di provare a fare musica che incroci anche modo di fare punk, diciamo, il meno prevedibile possibile. Poi ovvio che caschiamo anche noi sicuramente, chi ci ascolta ce lo potrà dire, però proviamo quella strada lì, ecco. Ok, quindi ci sta questa evoluzione, come si suol dire un po'. Nel fuori onda, che era comunque un'onda su Instagram, stavamo parlando un po' dei prossimi pezzi anche che andremo a mettere dei punkers che hanno scelto loro. Prima di tutto vi chiedo per quale motivo mi avete mandato Faith Gone e anche tutti gli altri, bene o male, se c'è qualcosa di particolare, e andiamo anche un po' a parlare delle tematiche di Faith Gone, perché ci tenevo anche a farvi parlare di quello che volete parlare. Allora, Faith Gone nasce come idea ben prima del 24 febbraio del 2022. Nel 24 febbraio 2022 scoppia la guerra aperta, prima sappiamo esserci stato un conflitto di altra natura, ma comunque la guerra aperta tra Ucraina e Russia. Quindi l'idea di Faith Gone è quella di riprendere e di ripetere uno dei temi che ci stanno più a cuore, che è quello della pace. Nel secondo EP noi abbiamo un pezzo che si chiama No One Wants to Read Tolstoy, quindi nessuno vuole leggere Tolstoy, per dire che nessuno si vuole occupare di pace. Sappiamo tutti che Tolstoy fu l'autore di un enorme monolite bellissimo, Guerra e Pace, nel quale parla a favore della pace. Quindi nessuno vuole leggere Tolstoy, significa sostanzialmente nessuno vuole parlare di pace. Nel terzo EP, Out of the Kingdom, riproponiamo ancora una volta questo tema con un'energia diversa, se vuoi, mentre nella la prima Tolstoy è più scanzonata, questa invece ha per noi, come dire, l'aggressività e lo spessore giusto per parlare di questo tema. Certamente tra, come dire, l'ottimismo della volontà o il pessimismo della ragione o viceversa, a seconda di come vogliamo vedere una vicenda di questo tipo, però questa è Faith Gone per noi. Ok. Molto sinceramente faccio un piccolo off topic. A sapere che eravate italiani, io vi avrei chiamato anche con l'EP precedente, però io ero convintissimo che foste americani, quindi ho detto vabbè, e cosa gli chiedo, come faccio a fare un'intervista in inglese, e sarebbe stato un casino. Poi dopo è saltato fuori che si riusciva a fare in italiano, ho detto vabbè, proviamo, vediamo come salta fuori. Infatti mi ero proposto anche qualche domanda con la traduzione in inglese, ho detto metti caso che non si riesca a capire bene italiano, però invece è tutto italiano, quindi tanto, tanto meglio. No, va bene, sempre interessante questa piccola questo piccolo off topic. E di questi pezzi, perché mi avete lasciato da parte gli altri due piuttosto di quelli che mi avete mandato? Sono più quelli un po' più significativi del disco, dell'EP? Allora, i primi due ci abbiamo mandato questi tre, quindi dopo è arrivata Warn, poi è arrivata la Wakbar, quindi questi sono i tre che hai ricevuto. Gli altri due invece sono già usciti come singoli: il primo, il Watch and Bleed, il 25 novembre, e il secondo, Taking Me Home, il 13 gennaio del 2023. Per cui, essendo già usciti come singoli, abbiamo ritenuto che non ci fosse bisogno di inviarteli, mentre questi te li abbiamo inviati prima dell'8 marzo del 2023, quando abbiamo fatto uscire appunto l'EP, per cui ci sembrava opportuno che tu li sentissi in qualche modo prima che uscisse l'EP. Ovviamente non casca a caso anche la data dell'8 marzo per una band che si chiama Punkast. Immaginavo anche fosse collegata anche quella. E brevemente dopo ne andremo a parlare anche di questo. Avete delle date, che così magari le diciamo, che se qualcuno è incuriosito da questa vostra dalla band, da quello che avete, magari può andarvi a vedere? Guarda, noi in questo momento abbiamo, siccome non, in questo momento abbiamo due date importanti: una in provincia di Milano a Carugate, a mena località però molto molto attiva, e una seconda a Monastir di Treviso, in un locale che si chiama Crack. La prima Circolacci Area di Carugate, la seconda Crack di Monastir di Treviso. Sono due esperienze molto interessanti. Al Crack abbiamo già suonato e torniamo molto molto felici, perché è un ambiente che, avendolo già conosciuto, insomma, sappiamo in quale mare ci piacerà provare a stare a galla e a nuotare. Ma a marzo, aprile, mi sai dire anche la data? Stiamo parlando del 25 marzo per quanto riguarda l'Arci Area di Carugate, okay, e del 29 aprile per quanto riguarda il Crack di Monastir di Treviso. Altre date sono nella calendarizzazione della verifica, che tutto sia a posto per poterla confermare. Però, come dire, non andiamo matti per i concerti uno dopo l'altro, cerchiamo quando è possibile di selezionare. Ah, ok, quindi anche questa è anche un'altra idea molto particolare, perché solitamente uno dice ho fatto qualcosa di nuovo, punto a suonare, che così magari trovo la botta di culo di suonare di spalla a qualcuno di po' più conosciuto ricalcare qualche palco con più gente e quant'altro. Però ci sta, molto molto interessante. Seconda parte di Let's Talk More Rock, siamo sempre in collegamento con i Punkast, che mi stavano facendo vedere la maglietta, ma purtroppo al contrario, ma si vede benissimo che la maglia rossa con la scritta Punkast, e quindi questa sicuramente sarà una delle maglie che potete trovare nei loro merch da live. Parlando effettivamente di Punkast, ovviamente era stato fuori, era una mia curiosità, e come mai vi chiamate Punkast, che dal movimento delle suffragette, dove avevamo già detto qualcosina quando vi mettemmo la primissima volta, però vorrei sapere da voi la motivazione. Assolutamente il motivo è quello. Fondamentalmente noi siamo molto convinti che la violenza sistemica nei confronti delle donne a tutti i livelli, sia come discriminazione, poi come violenza fisica, come violenza psicologica, sia uno dei guai che coinvolge l'intero pianeta. Non credo che sia possibile tollerarla. Il nome Punkast quindi nasce perché rende riconoscibile il nostro profilo, il nostro approccio su questo tema immediatamente. E perché d'altra parte, poi ovviamente facendo punk, le due cose si mischiano in maniera splendida come una palla di pongo, no? Per cui il nostro genere, la nostra attitudine insieme a questo convincimento fanno un tutt'uno e ci rende, come dire, ancora più convinti di quello che stiamo facendo, muoverci in questa direzione in questo modo. Ok, quindi anche come dicevamo prima, non a caso l'uscita del disco è stata l'8 marzo, ovviamente per la festa della donna, quindi immagino che sia stato per quello la motivazione, giusto? Assolutamente, assolutamente sì. E abbiamo atteso l'8 marzo proprio per dare questo tipo di risposta. E ti dico anche un qualcosa di più: ne abbiamo parlato spesso e volentieri tra di noi. Siamo perfettamente consapevoli che parlare di qualcosa che riguarda altri, perché noi siamo tutti maschi, no? Quindi noi non siamo le vittime, Quindi occorre fare molta attenzione, perché la parola non tocca a noi, tocca a chi è vittima. E quindi quando offriamo questo argomento stiamo anche molto attenti a tutte le sensibilità che ci possono essere su un tema così delicato e nello stesso tempo deflagrante. Per cui non lo proponiamo in termini come se fosse un mero slogan, Caleb, giusto? Ma lo proponiamo, come dire, se vuoi, non voglio usare la parola delicatezza, però per parte nostra con attenzione a fare anche capire che non arriviamo con una ricetta sul tavolo e non stiamo sponsorizzando nulla. Ci chiamiamo Pancast perché crediamo che questo sia un problema. Non abbiamo noi la soluzione, ma riteniamo che sia importante che questo tipo di tema faccia parte dell'agenda quotidiana di tutti noi. Certo, è anche soltanto il fatto che un gruppo di uomini si definisca come identità femminista, diciamo che crea a volte dei cortocircuiti, ma perché? Quindi è una cosa che riguarda anche gli uomini, anche noi dobbiamo avere questa. Già mette, invece che dare soluzioni, invece che dare ricette, costringe le persone a dei dubbi. Ed è un po' quello che a noi interessa di più, quello che secondo, cioè, il compito anche della proposta, quello che secondo me dovrebbe essere anche il compito di una proposta culturale, quindi non di fare della morale, ma di proporre nuovi modelli di pensiero, o comunque sia porre dei dubbi su quello, su quelli che sono i nostri modelli di pensiero. Domande. Ok, molto, molto, molto esaustivo, come dicevo prima. Come etichetta, cosa avete scelto? È tutto molto DIY, come molto spesso capita nelle band minori? Allora, avete... abbiamo avuto la fortuna di incontrare una etichetta giovane che si trova in una regione italiana che si chiama Emilia Romagna, che si chiama Sheraton, e con la quale c'è un ottimo rapporto. Siamo molto felici di discutere con loro, di chiacchierare con loro rispetto al nostro progetto. Loro ci sostengono, ci danno una mano, ci danno una spinta. È ovvio che come tutte le possibilità, raccoglieremo, come dire, il consenso crescente, è inevitabile che saremo disposti ad accogliere anche eventuali proposte di etichette che ritengano, sì, esatto, esattamente, certo. Rispetto al DIY, va sottolineato che Sheraton non è intervenuta con noi in termini di produzione, ma soltanto in termini di diffusione, distribuzione, in qualche maniera ci ha dato una mano a uscire fuori, però hanno creduto fin da subito a quello che era la nostra proposta artistica. Quindi dal punto di vista delle scelte stilistiche noi siamo sempre stati completamente autonomi, sia per quello che riguarda la costruzione musicale in sé, che per quello che riguarda insomma tutto quello che c'è intorno, quindi grafiche e anche le scelte, diciamo così, di come raccontarsi sui social, che poi sono i canali che hanno sostituito al momento l'uscita fisica, di conseguenza, ecco. C'era sempre da solo questo. Ok, quindi avete completa libertà di tutto, quindi anche questo non è un punto a sfavore, anzi, per quanto riguarda le etichette, molto spesso si intromettono, soprattutto nelle major principalmente, però magari anche ogni tanto nelle più note, magari come possa essere Fette, Epitaph, per chi ascolta punk, magari qualche influenza da qualcun altro ci possa essere, però avere la completa ideologia di quello che uno vuole fare è molto interessante. Intanto per chi ci stava seguendo su Instagram si è, perlomeno io mi sono divertito un sacco a questo battibecco tra loro due, tra James e Caleb, che si stavano parlando chi era più chiacchierone, chi era più punk e quant'altro, quindi è stato un intramezzo molto interessante. Continuando però sull'intervista, parlate, allora, principalmente un'altra domanda era per quale motivo diciamo, passami il termine, spacciate come di Washington piuttosto che dire effettivamente che siete italiani. Ok, allora, ci sono due proposizioni di riferimento. La prima, Washington DC è il cuore del potere nero mondiale. È vero che si parla di relazioni internazionali negli ultimi 20-30 anni che si sono spostate su vari livelli, per cui non ci sono più due blocchi, eccetera, eccetera. Però è vero che Washington, guarda caso, rimane ancora un luogo totemico. È lì che vengono prese fondamentalmente le più importanti decisioni che riguardano il pianeta, le organizzazioni finanziarie globali, il WTO, l'Organizzazione del Commercio. Spiegano un'influenza devastante, intervengono sulla vita delle persone, le distruggono la vita delle persone con politiche appunto finanziarie che entrano nella quotidianità. Se vuoi, la decisione sulle guerre che devono essere intraprese, sul mantenimento dei conflitti a bassa intensità, sulle derrate di armi, quindi non derrate alimentari ma derrate di armi, quindi dire Washington significa questo. Il secondo elemento è anche la deterritorializzazione. Esattamente, grazie, sì, grazie. Io non ce l'avrei mai fatta. Grande Caleb, è per questo che quando uno dice una scemenza interviene l'altro che dice una cosa intelligente. Mi ha portato apposta. Esatto, questa cosa che un po' fa parte della grande tradizione del punk o del punk rock, secondo il bisticcio del fuori onda di prima, per cui una band deve dire da che parte viene, in quale cardine territoriale è strutturata. A noi questa cosa piace poco, un po' perché nostra patria è il mondo intero, se posso dire, un po' perché ci stanno antipatiche le frontiere, quindi i confini o anche i luoghi di origine ci interessano relativamente. Noi abbiamo una cultura, la nostra cultura esprime chi siamo, e quindi anche il luogo, il territorio potrebbe non dire qual è la nostra cultura e la nostra appartenenza. Ok. È una narrazione che va avanti dentro la narrazione, fa parte di una proposta che va a completarsi insieme a quello che è il vestito che utilizziamo sui social e che va ad integrarsi alla musica. Quindi c'è un po' anche questo elemento. Ok. Ricordo che tenevate anche a parlare leggermente di Warn, quindi del pezzo cosa mi volete dire? Di cosa parla? Warn parla di migranti, richiedenti asilo in tutto il mondo. Nel primo EP, In The Vault, c'è un pezzo che amiamo molto che si chiama Crossing, che viene scritto contro la costruzione del muro per volontà dell'ex presidente Trump tra Stati Uniti e Texas. Quindi anche qui abbiamo ripreso un tema appunto che ci interessa in maniera se vuoi anche violenta per taluni aspetti, perché tanto ci appassiona. E quindi Warn parla di migranti in fuga, nasce in realtà da un'immagine ormai di qualche tempo addietro, quando una giornalista ungherese fece uno sgambetto a due migranti che stavano cercando di scappare per poterli riprendere, che poi furono presi dalla polizia. Un piccolo episodio che poi in realtà viene portato dentro Warn. Ok, quindi sempre tematiche di protesta e anche giuste in praticamente su tutto quello che proponete. Come mai continuate a fare EP piuttosto che magari fare un album completo? Giusto così, vedendo, dato che siete un po' da un paio d'anni che siete in formazione, magari... Certo, perché diciamo che rispetta un po' di più i tempi con cui si riusciamo a uscire, riusciamo a mettere sotto, riusciamo anche a elaborare il materiale, non ce la sentiamo tanto di impegnarci in un long tail, perché ci costringerebbe a tenere quel tipo di identità per tutti, cioè per 13 brani. Un EP invece, diciamo, ci permette di metterci una pelle, un vestito, di andare avanti nella nostra immagine artistica per meno brani, e quindi poi ci dà anche la possibilità di riaggiornarci e di rimettere in discussione anche quello che abbiamo fatto. Ci piace respirare a ritmo di 5 Mi piace questa immagine. Respirare alla volta, ok? Quindi ne buttiamo fuori 5, poi respiriamo, teniamo. Respirare 5 brani alla volta è bella. Mettiamo magari mano al materiale, andiamo a ripescare delle cose senza avere la necessità di uscire tutti in una volta. Grazie al cielo siamo liberi dal gioco dell'uscita. Cioè, magari da alcuni nostalgici ci può non piacere, però adesso è cambiato molto il mondo delle uscite discografiche, quindi non sono più legati necessariamente. C'è una volta che fai il disco, caspita, mettine dentro 13, mettine dentro 15, riempilo quel CD. Adesso invece che tutto quanto va sul liquido, possiamo permetterci di fare meno materiale e uscire più volte, quindi tenere un po' anche quel tipo di dialogo attivo sempre, sia con noi stessi che con sempre. Okay, stavamo parlando un attimo con i Pankhurst ovviamente, e stavamo parlando del discorso della fruibilità su come ascoltare oggi come oggi la musica, e purtroppo è molto sui social, sulle piattaforme di streaming di musica, quindi principalmente per Spotify. Quindi dicevate, stavate pensando a qualche formato fisico? No. Allora, no, il formato fisico non ci stiamo pensando, ci piacerebbe, no, okay. Non ci stiamo pensando per il momento. Il formato fisico ci sarebbe interessante un pochino, perché il CD non è neanche più, diciamo così, non si vende neanche più ai concerti e date. Pensavamo al vinile, in tanti hanno avuto la nostra idea del vinile, adesso è molto più interessante il vinile, perché comunque sia la musica non è più un oggetto che ti permette di ascoltare la musica, è più un oggetto, se vuoi, da tenere in casa, da guardarci la copertina, da tenere bello appoggiato sullo stereo e guardare intanto che ti ascolti la musica. Questo è assolutamente interessante, e lo sposo, io sono anche io di quella scuola, però se dobbiamo parlare di fruibilità della musica, adesso andiamo sulle piattaforme liquide, quindi noi siamo anche su Bandcamp, che forse è l'unica piattaforma che ci permette di seguire il filologico della scaletta dell'EP, sì, Bandcamp, SoundCloud, però per esempio già Spotify, se non sei abbonato, tende a mischiare le tracce, YouTube rischia di tirare la pubblicità in mezzo, quindi ecco, però adesso è un po' questo. C'è un altro, non c'è più l'idea dell'album come era una volta, e del vinile, siccome piace a tanti, piace a molti, in tanti hanno avuto la nostra idea, di conseguenza i prezzi dei vinili, oltre ad avere delle tempistiche molto lunghe, ricevere proprio il materiale, i prezzi sono schizzati alle stelle, quindi insomma, per adesso rimaniamo soltanto sulla parte liquida. Va bene, molto interessante, come solito, anche capire da una piccola band come pensa sulla fruibilità di farsi ascoltare, quindi ci sta come ragionamento. Sì, noi siamo... poi c'è... Vai. No, scusa, sempre rispetto a questa cosa con il vinile, c'è da dire che il vinile anche adesso è un oggetto che riproduce in analogico, però sostanzialmente in prodotto digitale, perché la macchina che l'ha registrato comunque sia di studio lavora tutto in digitale, e per quanto c'è della poesia assolutamente nella puntina che si inserisce dentro il solco, comunque sia quello che arriva all'orecchio comunque il risultato di una lavorazione digitale del suono. Non stiamo parlando di strumenti analogici come vecchi bobinoni, che quindi recuperano il suono tutto quanto in analogico, e hanno anche quel tipo di calore che è caratteristico di produzioni di qualche decennio fa. Okay, esatto, giusto, hai fatto bene a precisarlo, perché è pura verità. Noi siamo quasi agli sgoccioli, quindi andiamo a chiudere con l'ultimo pezzo, la Hook Bar, quindi ditemi qualcosa sul pezzo e anche sui video che avete fatto, perché mi ricordo nel fuori onda che volevate parlare anche dei video, quindi non avete tantissimo tempo, siate il più veloci possibile. Provo io. Allora, il titolo vero del pezzo non è Allahu Akbar, ma è Allahu Akbar, e quindi riprende in questo modo la violenza che c'è in tutta la regione medio orientale, che è suscitata da tutti coloro i quali stanno aggredendo e sterminando una popolazione intera per i loro maledetti interessi. La seconda domanda era? per quanto riguardava i video, che mi ricordavo che volevi parlare anche di video che avete video, fatto. Ah, esatto, siamo molto felici di una collaborazione che è in essere con una struttura che si chiama Destination Film, in particolar modo con Alessandro Rocca e Martino Mele. Sono due under 30 bravissimi che, come dire, hanno carta bianca e comunque fanno sempre le cose strepitose con quello che gli mettiamo a disposizione, che non è tantissimo, però bello, bello, bello. Vi invitiamo a vedere i nostri video, che vi lasceranno, secondo me, soddisfatti. Ah, bene, interessante. Guarda, sei stato anche più breve di quello che pensassi, quindi ti chiedo un'ultimissima domanda, è molto aperta, quindi anche qui cerca di essere il più breve possibile se hai una risposta. C'è qualcosa che non vi ho detto o che volete dire per l'ultimo minutino prima di lanciare l'ultimo pezzo? Domanda così aperta. No, io non ho niente, non mi viene in mente niente, così d'amblè non ho nulla da aggiungere. Veniteci a vedere il 25 a Carugate, chi è in zona, e il 29 al crash di Monastir, di Treviso. 29 di aprile. 29 di aprile, 25 marzo, 29 di aprile. Perfetto, hai fatto bene a ripetere le domande in chiusura, quindi io ragazzi vi ringrazio per la disponibilità. Adesso vi vedo un attimo frizzati, quindi probabilmente la connessione è andata un po' in vacca, però spero che mi riusciate comunque a sentire. Vi ringrazio per la disponibilità. Sì, purtroppo... Grazie a te, ci senti? Ok, se adesso vi sento. Noi ci siamo. Gentilissimi per disponibilità. Io vi saluto e vi ringrazio ancora per l'opportunità. Se volete salutare anche voi, così vado, mando il pezzo e chiudo la puntata. Grazie, ciao, buonasera, ciao. A tutti e a tutti. Perfetto, bravissimi. E io vado, come dicevo prima, vado a chiudere la puntata. Ciao e buon pancrocca a tutti. Buona domenica.